Vista. Viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Bentornati ad una nuova puntata di Radio Next. Ormai il lockdown è parzialmente alle spalle, ci stiamo avvicinando ad una fase nuova, che è una fase proprio da riconcepire, ricostruire, reinventare. Abbiamo una grande possibilità, quella di costruire qualcosa di meglio rispetto a quello che c'era prima, e oggi vorrei parlare insieme a Danilo Cattaneo, amministratore delegato di InfoCert Tinexta Group, del concetto di credibilità, di trust, perché in fondo tutta questa digitalizzazione delle relazioni sta cambiando ovviamente il nostro modo di operare sui mercati. Buongiorno Danilo, benvenuto a Radio Next. Buongiorno a te Pepe e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Danilo, i mercati sono fatti di relazioni, oggi sono sempre più forzatamente digitali perché siamo in una situazione in cui ancora non possiamo vederci come facevamo prima e probabilmente non lo potremo più fare. Come sta cambiando la partecipazione dei vari soggetti giuridici, aziende, collaboratori, professionisti sui mercati? In poche settimane molti soggetti giuridici si sono adattati al digitale, forzatamente, perché mentre fino a febbraio erano le grandi aziende e i professionisti che avevano un ampio uso di relazioni digitali, sì, anche le relazioni a valore legale, quali un contratto, un finanziamento, adesso a torto collo tutte le aziende, avendo subito il lockdown in modo molto repentino, hanno chiesto a noi e a tanti altri operatori di essere messi in grado di poter lavorare su praticamente tutti i processi interni, quindi tra colleghi, e verso le controparti esterne, clienti e fornitori, in modalità digitale. Il nostro ruolo, noi siamo un trust service provider, che in italiano viene tradotto molto male dalla normativa europea come fornitore di servizi fiduciari digitali. Sì, ma cosa significa? Decisamente brutto. Infatti qualcuno ci prende per una fiduciaria che è tutt'altro. Certo. Noi dobbiamo aggiungere il trust a qualsiasi transazione digitale. Cosa significa? Se due persone si incontrano e prendono un accordo, si conoscono, si valutano, quindi la nostra cultura ci porta a fidarci di alcune persone dall'aspetto più rassicurante e meno di altre, sì, dall'altra parte di una transazione digitale noi non abbiamo idea di chi ci possa essere. Certo. Ecco, noi siamo una terza parte che garantisce l'una e l'altra parte della transazione con chi stanno parlando. Quindi fondamentalmente è una specie di notaio digitale. Assolutamente sì, noi garantiamo la firma digitale, quindi la volontà di transare, ma soprattutto l'identità della persona che sta transando, sì, e la data di quando questo avviene, con valore legale, quindi assolutamente come un notaio. Senti, ma questo voi lo fate solo per le aziende o lo fate anche per il privato? Cioè anche il privato ha la possibilità di avere, tra virgolette, la sua firma digitale e quindi poi stipulare contratti digitali? Assolutamente sì, per darti un'idea, noi abbiamo oltre 2 milioni di clienti attivi, sì, di cui qualche migliaia di grandi aziende, e molti sono individui, spesso sono professionisti, per capirci, commercialisti, avvocati, certo, geometri, che devono firmare digitalmente i loro atti, sia verso le pubbliche amministrazioni che verso le aziende private, ma in molto caso anche cittadini. La firma è uno degli strumenti, ma sempre più diffusa è la PEC, che ormai in Italia c'è da 10 anni, sì, tutte le aziende hanno una PEC, e se io devo, ad esempio, sospendere un servizio, cambiare un operatore, posso mandare una raccomandata o posso mandare una PEC. Certo. Molti cittadini ormai lo fanno con regolarità, e negli ultimi anni si sta diffondendo anche SPID, proprio il sistema pubblico di identità digitale che serve ai cittadini, quindi ai singoli individui, per qualificarsi, per dire all'altra controparte, sia essa una pubblica amministrazione, una banca, un istituto di credito al consumo, io sono questa persona, una terza parte fidata, quindi un operatore di identità digitale lo conferma e lo garantisce, e quindi aumenta di molto la fiducia. Si evitano tantissimo le frodi, quali ad esempio il phishing, che ultimamente purtroppo si sta diffondendo, anche perché tutti lavorano da casa e magari erroneamente cliccano su qualche email di troppo e rilasciano dati privati, certo, quali username e password. Certo. Danilo, perdonami, il trust diventa quindi, come dire, la credibilità diventa forse quasi più che una moneta, proprio un abilitatore delle transazioni sui mercati. Ma la tecnologia, che ruolo abilitante può giocare? E soprattutto, quanto deve essere semplice la tecnologia versus invece quanto deve essere, come dire, necessariamente complicata per proteggere, perché poi c'è sempre questo dualismo, no? Rischio di essere troppo complicato ma poi nessuno la usa, rischio di essere troppo semplice ma poi ho dei buchi e non sono così sicuro. Cioè, come si trova un balance qui? Hai centrato uno dei punti. Noi vendiamo sicurezza e trust, sì, dove contano sia la tecnologia che le normative. Tutte e due, per fortuna, da anni hanno fatto grossi progressi, e per capirci, sulla firma, sull'identità, ci sono sia tecnologie che norme da oltre 10 anni. Sì. Quello che sta migliorando molto è l'usabilità. 10 anni fa una firma digitale era un qualcosa di abbastanza faticoso, occorreva una smart card, un lettore di smart card, sì, una serie di operazioni. Adesso il mio libro firma digitale arriva sul mio mobile, con pochi tap vedo il documento, lo firmo, lo rimando magari per verificare che tutte le persone che me lo devono confermare hanno messo la sigla. Quindi quello che è migliorato tanto, ma proprio negli ultimi 2 o 3 anni, è l'usabilità, fermo restando un altissimo livello di sicurezza. Cioè, per darti un'idea, noi l'anno scorso abbiamo fatto oltre 400 milioni di firme digitali, sì, 2 casi di tentato ripudio, quindi una percentuale praticamente nulla. Irrisoria, praticamente zero, sì. Danilo. Sì. Senti, come siete arrivati? Come è arrivato il mercato ad uno standard? Questa è una curiosità che, come dire, mi attanaglia, perché ci sono tanti altri mercati. Penso alle smart cities, dove ogni smart city si crea, ogni città, scusami, si crea, come dire, le sue regole di interscambio dei dati, ma poi in realtà tra città non si parlano, nella stessa città magari le stesse funzioni all'interno del comune non riescono a parlarsi, il traffico con la sanità e via dicendo. Voi invece, cioè il sistema paese, riuscite a trovare uno standard su questa tematica. Come ci siete riusciti? Devo dire, non grazie a noi, né come azienda né come paese, ma grazie alla Commissione europea. Ci sono state 2 importanti leggi, una direttiva che addirittura è del 99, sì, sulla firma digitale, sì, e ma ancora più importante, nel 2016 c'è stato un regolamento europeo, viene chiamato EIDAS, un regolamento sulla firma e l'identità digitale, che ha rimpiazzato la precedente direttiva. Un regolamento rispetto a una direttiva ha un grosso vantaggio: è una legge unica in tutta Europa. Okay. Quindi mentre è vincolante. Anni 2000, è vincolante, ma è standard, è totalmente, certo, standard. Certo. Nei primi anni 2000 la direttiva era stata recepita in tutti i paesi comunitari, ma con dei piccoli dialetti. Quindi una firma digitale italiana era quasi identica a una francese, ma non era interoperabile. E qui basta un bit per fare la differenza, no? Quindi per non rendere leggibile da un paese all'altro lo stesso atto. Quindi immaginiamoci, io che voglio comprare una casa, ma ammesso che mai possa nella mia vita, forse nella prossima, una casa in Costa Azzurra, non potevo farlo da casa, dovevo andare lì. Sì. E anche con, ti posso fare un esempio ancora più risibile. Sì. Un cittadino italiano si poteva iscrivere a un'università francese con una firma digitale, sì, ma doveva per forza andare in Francia a prendere una firma digitale francese. Quindi sì, con la firma digitale evitavi di andare in Francia per fare l'iscrizione, ma dovevi farlo per andare a prendere la digitale. Allora, nel 2016 questo regolamento è stato davvero una rivoluzione, sì, perché da Bruxelles hanno spinto per un single digital market. Sì. Che significa? Totale interoperabilità. Per darti un'idea, adesso noi vendiamo in 20 paesi europei, perché qualche grosso istituto, per esempio una grossa banca italiana che ha comprato anche banche nell'est Europa, sì, oppure ING, la banca olandese, sì, si era trovata contenta con la filiale italiana, ci ha chiesto ce lo rifà in Francia, ce lo rifà, certo, in Romania, certo, non in Amsterdam a firmare. E questa interoperabilità migliora tantissimo la qualità, perché ovviamente noi veniamo a conoscenza dei migliori casi d'uso di alcuni paesi e li portiamo in Italia, e viceversa. Noi in Italia abbiamo negli anni fatto tanta ricerca e sviluppo, abbiamo fatto 16 brevetti, per darti un'idea dell'innovazione che facciamo, e risultiamo abbastanza innovatori anche a tanti altri paesi europei. Quindi si sta spingendo davvero tanto. Ok. Senti, ma quali sono le resistenze da parte del mondo aziendale e come si superano? Ci puoi fare qualche esempio, insomma, di resistenza superata, a parte quella di ING che ci hai detto prima? Le resistenze sono soprattutto culturali. Aziende spesso ritengono di non essere pronte alla trasformazione digitale, di non avere soldi per investire, e così facendo purtroppo soprattutto le piccole aziende rimangono con i processi produttivi di 50 anni fa. trattano i clienti e si relazionano, per usare questo termine, con i clienti, così come facevano nel dopoguerra. Sì, però e lasciami ovvio, dire, Danilo, cioè io sono un cliente, sono realmente un cliente di InfoCert. Mi costa molto di più il parcheggio annuale sotto casa che non una firma digitale. Sì, costa, per dare un'idea, pochi euro all'anno. Esatto, cioè di che parliamo? Una vita di una mano di euro all'anno. Esatto. Assolutamente non è un problema di costi, è un problema culturale. Tant'è che le grandissime aziende, praticamente tutte, hanno investito nella trasformazione digitale, sì, con vantaggi enormi. Un credito al consumo, noi operiamo su tutti i principali operatori di credito al consumo, facciamo uh-huh, molti milioni di credito al consumo all'anno, uh-huh, il costo di gestire la pratica passa da una decina di euro a circa un euro, ma soprattutto i tempi, si passa da 3-5 giorni per gestire l'approvazione o il rifiuto di un credito su carta, a 10 minuti un'ora per gestirlo in digitale, certo, quindi si dà conferma al cliente prima ancora che esce dal centro commerciale, certo, e non cambia idea, oltre a essere più sicuro. Quindi non c'è dubbio sul vantaggio, ma ciò nonostante noi serviamo grandi utility, le grandi telco, le grandi banche, e gradualmente stiamo scendendo verso il settore, se vogliamo, di piccole e medie imprese. Lì è davvero difficile trovare una persona, un Chief Innovation Officer, una persona che, sì, vuole innovare i processi. I nostri interlocutori sono non tanto l'esperto di tecnologia, mm-hmm, ma l'esperto di processi. Beh, dovrebbe essere il mondo legal e finance il vostro cliente aziendale, no? Perché hanno tutto l'interesse a velocizzare i processi interni. Sì, o addirittura il direttore generale che vuole raggiungere altri clienti in modo più rapido, in modo più economico, e quindi migliorare di tanto, certo, la top line dell'azienda. Ma nelle piccole e medie imprese, e questo a volte non c'è, non c'è la volontà di innovare. Ti dico, guarda, io con una battuta dico ai nostri colleghi che tante realtà hanno fatto in 2 settimane a marzo quello che si sono rifiutate di fare nei precedenti 10 anni. Certo, ahimè questo purtroppo è un tema purtroppo ricorrente. Danilo, dal tuo punto di vista, quale sarà il futuro dell'identità digitale e quale sicurezza noi ci dobbiamo aspettare per i dati? Perché sempre più un'identità nostra, la carta d'identità proprio che diventa digitale, quindi la possibilità di essere univocamente riconosciuti come Pepe Moder oppure come Danilo Cattaneo, ma dall'altra parte il timore che questi dati poi possano essere, come dire, trafugati, rubati. Allora Pepe, in questo momento siamo in una fase 2 dell'identità digitale. Mm. Spiego meglio. Ecco, bravo. Dai primi anni 2000 abbiamo tutte le persone che usano ad esempio un web banking, una serie di identità digitali. Quindi chi ha una banca online, sì, ha un'identità digitale di quella banca, grazie alla quale viene riconosciuto in modo univoco e grazie alla quale può fare un bonifico online, comprare, certo, o vendere investimenti. Ma in questo caso ogni azienda con cui avevo rapporti remoti, sì, mi dovevano riconoscere in qualche modo abbastanza costoso e assegnare un'identità digitale. Sì. Porta 2 problemi. Il primo, di costi. Sì. Se ho 5 banche e ho rapporti con alcune pubbliche amministrazioni e altre aziende, devo avere una decina di identità digitali. Certo. E il secondo è di tempi. Una nuova azienda che vuole avere un modello digitale, in questo modo deve uno a uno riconoscere i propri clienti. Certo. Ci vogliono anni. Certo. Ed è difficile riuscire a targettare una platea ampia. Perché siamo in fase 2? Perché ormai da 4 anni c'è SPID in Italia. Sì. SPID banalmente è un'identità digitale standard e anche a standard europeo. È stata notificata alla Commissione europea e riconosciuta. Quindi non solo è standard in Italia, ma un cittadino italiano con SPID può fare operazioni con le pubbliche amministrazioni della Svezia e viceversa. Un italiano magari emigrato che sta all'estero e ha un'identità digitale di quel paese a standard EIDAS, grazie, mm-hmm, a un gateway che noi abbiamo realizzato vincendo una gara Connecting European Facilities, CEF, mm-hmm, ormai 3-4 anni fa, può collegarsi con INPS, col proprio comune, e fare gli atti per i quali prima doveva addirittura venire in Italia. Immaginiamoci risparmio, certo, di tempo e costi. Qual è il vantaggio di SPID? È uno standard. Quindi, mm-hmm, man mano che si diffonderà tra cittadini, le pubbliche amministrazioni in teoria lo dovrebbero avere tutte, in realtà, sì, solo le grandi ce l'hanno, sì, ahimè, ma si diffonderà anche tra le aziende private, banche, ferrovie, aziende di giochi, molte, sì, stanno aderendo. C'è un grosso risparmio di tempi, c'è un grosso risparmio di costi, e dicevo, una nuova azienda che vuole fare business in digitale ha dal giorno 1 a disposizione milioni già ora, e si spera una maggioranza degli italiani tra 1 o 2 anni, di target, di cittadini possibili digitali, clienti assolutamente identificati in modo certo. E questo è un grosso vantaggio economico e anche un minimo di rischio, perché come tu dicevi correttamente, anche se attualmente i gestori di identità digitale sono 9 e sono per lo più aziende come noi che sono certification authority, quindi vivono di sicurezza dei dati, noi abbiamo una serie di audit italiani ed europei sulla sicurezza, abbiamo una decina di milioni di identità digitali già gestite, che rispetto alla popolazione di business italiana non è poca roba, e non abbiamo mai avuto significativi problemi di nessun tipo, di danni o frodi, ma comunque è un rischio che noi stessi o un terzo malevolo acceda a questi dati. Siamo già pronti per la nuova fase dell'identità digitale, quella che viene definita self-sovereign identity, che significa comunque uno standard, quindi accettato ovunque, ma i cittadini avranno su un wallet, sul proprio mobile, la propria identità, sia come certezza della persona, sia una serie di attributi, titolo di studio, motivi legati all'identità in termini di healthcare. Sì. Ma il cittadino è self-sovereign, cioè accetterà di rilasciare alcune informazioni solo a chi vuole, e ognuno gestisce le proprie. Quindi c'è uno standard, ci sono terze parti fidate come noi che certifichiamo le informazioni che lui rilascia, ma ognuno gestisce le proprie. Quindi si evitano tanti possibili rischi alla Grande Fratello di controllo, avendo comunque tutti i vantaggi di poter essere riconosciuti quando si vuole essere riconosciuti. Cari ascoltatori, abbiamo ascoltato dalle parole di Danilo Cattaneo l'evoluzione del futuro. L'importante in questo momento è non pensare a come tornare a dicembre 2019, ma a pensare come sarà dicembre 2020, con nuove regole, con nuove attività, nuove modalità di fare business, anche attraverso un'identità digitale che è una delle chiavi di volta per la creazione di credibilità sui mercati e quindi la possibilità di fare ovviamente business online. E questo direi che non c'è possibilità di scampare, ma anzi abbiamo la necessità di dover imparare a farlo sempre meglio. Ringraziamo allora Danilo Cattaneo per essere stato con noi. Danilo Cattaneo è amministratore delegato di InfoCert T-Nexta Group. Grazie mille Danilo. Grazie a te, è stato un piacere. E ringraziamo ovviamente tutti voi ascoltatori per essere stati con noi anche questa settimana. Come sempre, il podcast completo lo troverete da lunedì a disposizione sul sito di Radio 24, oppure noi ci sentiamo per una nuova puntata di Radio Next domenica prossima alle 13:45. Un saluto da Pepe Moder.